anche se è primavera, chi ancora non conosce amore, sente persino a maggio l'autunno in cuore. E per la prima volta, da quando ho incontrato te, sento il tepor di un raggio e palpita il cuore in me. Il mio cielo sono gli occhi tuoi che limpidi mi guardano. Specchiandosi negli occhi miei, mi parlano d'amore. Non so il tuo nome ancora, ma so che sei tu, il primo e l'ultimo per il mio cuore. Sole, sono gli occhi tuoi che splendono per me. Non so il tuo nome ancora, ma so che sei l'amore, il primo e l'ultimo per il mio cuore. Il mio sole sono gli occhi tuoi che splendono per me.